Arriva la lancetta, deve essere, l'ho toccato senza volerlo. Come sta andando? E infatti anch'io sentivo la voce sotto, ho detto ma vuoi vedere che c'è qualcuno in FM, e infatti non l'avevo riconosciuta nemmeno la voce. Dove te la trovi? A casa? Sì, sono a casa, sono rientrato da poco, ero in Girella. Cavagala. No, mio, sono andato a accompagnare Antonio a prendersi la macchina al meccanico, adesso sto tornando, dai. Ah, quindi sei in barra mobile? Sì, sono in barra mobile, come mi ricevi? Qua ti sento molto molto bene, non so dove tu sia, però ti ascolto bene, bene. Sono aperta niente. E a voglia allora, dai, già è aperta verso quella zona. E qua segnale mi da 9, capito, radio 4. Gava gava. E adesso vado verso casa, dai. Ho accompagnato Antonio a prendersi la macchina e adesso stiamo tornando. Cappa, non è entrato nessuno stasera? Non te lo so dire se prima c'era qualcuno, io sono rientrato da poco e l'ho accesa poco fa, capito? E lì arrivo bene, Gianni. Sì, ti ascolto bene. La radio è un po' bassina, ma già ti ascolto tranquillamente, dai. Perché questa è l'altra radio, quella più piccolina. No, è che c'è QRM qua, capito? È quello il problema. Sì, ma questa è una radio piccolina che ho, capito? L'altra usciva più potente, quella di ieri, perché è più grande. L'altra è una bombetta, C'è una bella radio, l'altra radio. KK. Comunque, dai, ci sentiamo più tardi, sto scendendo un attimo giù in garage per portarmi su dell'acqua. Stanotte c'è la partita e quindi mi sto organizzando un po' con la cena e eccetera. Comunque sono acceso, 10 minuti e poi ritorno. Alle prossime, già, ci sentiamo dopo nel caso. Ciao Carlo, ciao, ci sentiamo. Avanti se c'è qualcuno sul canale 10. Ora c'è nessuno in ascolto per un controllo. Ora attenzione, binario 10, cambio. Attenzione 10. Che avanti. Buonasera, ciao Tino. Buonasera, Daniele da queste parti. Chi sei? Daniele T. Daniele, mi sembra Vittino, sono Gianni. Chi sei, Gianni? E beh, Gianni, buonasera. Poi Daniele. Mi sembra Vittino dalla modulazione. Invece sei tu, dai, adesso ti ho riconosciuto. Chiara, chiara. Dai, c'è qualcun altro, non so chi fosse. E non ne l'hai chiesto? No, sì, un corpo importante, Bugia. Ah, vabbè, quelli ci sono sempre, però non lo mettono la portata e poi va a chiamarli e non risponde. Ci sono sempre quelli. C'era anche Carlo stasera, però poi è andato via e non so adesso se rientra o no. Brava, brava. E qua, per me già li sento tutti, però mi ha acceso adesso, si può dire. Sta entrando anche Claudio. Già va bene, già va bene. E poi mi sono perso, la modulante mi sono perso. No, ma stasera non è entrato, non l'ho sentito, ieri c'era. E già viene, dai, già entra, l'ha detto che lui ogni tanto entra. Ciao, ciao. 10 minuti liberi, già ne approfitto a vedere chi c'è. È strano che non sia l'ascolto, strano, perché solitamente lascia tutto acceso. Vabbè, niente male, già sono qua, aspettate un attimo, ciao Daniele. Mi nomi Galente, ciao, ciao. Niente male, che avete parlato in due, cosa hai detto Daniele? Ho detto buonasera, ben ascoltato Claudie. Anche a te, ben inteso, 5-9, nessun problema, io sto dando 20 watt, però era accesa già da un po' la radio. Ciao Gianni, riprendi un secondo che arrivo subito. Daniele, cosa hai fatto che stai arrivando bello forte adesso? Cosa già, cosa ho fatto che ti sta arrivando? Bello forte di radio, di cosa, cosa gli hai fatto? Qualche linea era attaccata? No, sono liscio come l'olio già, liscio liscio. Mi stai arrivando 9, la radio è 5 a bolla. Io faccio la radio, sto usando il boggia, niente di che. Già va bene, dai, già va bene, interessante, ti fai sentire, prima ti sentivo basso, adesso ti sento bene. Meglio così, perché se sei facendo un altro arrivo. Però non, per esempio tu sei 5 di segnale, la radio sì è buona ma è bassina. Cosa stai usando Daniele? 44 o 14? Il 44 è questo qua. E anche questo è il 44. 14 lo stavo usando ieri e l'altro giorno, ogni tanto li faccio andare tutti e due, ma quello che mi preoccupa di più è sempre il 44, perché se lo tieni spento è sempre un casino, ma ho visto che questo già si difende bene, l'aveva tutto revisionato Fabrizio. Va bene, va bene. E tu Gianni non ce l'hai più 14, venduto direi d'ora. Cazzo, ma che c'è una cosa allucinante. Ma qua c'è, ce l'hai venduto? Aspetta, che non venduto. Sì, a Sassi. Per carità, non fa, non te ne biglia più intanto. Non te che lo prendi, poi lo dai. Cosa lo prendi a fare? Vabbè. Ok, no, io non li ho mai dati. Cioè, non li ho mai dati, oddio. Ce ne ho dato un bel, ma perché ce l'avevo doppi. Ce l'avevo sempre doppi e quindi di cavo, adesso c'ho la linea completa, proprio non manca uno spillo come quella tua Daniele, del 140 con il correttore automatico, tutto, no, tutta la linea completa è il 440 per la 440 lo uso per i 10 metri, questo invece è il 14 lo uso per la 27, però oggi ho commutato, lo sto usando al contrario solo per quello, poi le altre radio KF sono per fare altro. Vai Daniele, con 5-9 sei tu qua, io come ti arrivo? Anche tu sei così qua. Va bene, ottimo per la truppa, posso lamentare. Sì, io ce l'ho tutti in fila, ce li ho qua, tutti schierati. Le truppe sono qua pronte all'uso, le accendo, sono tutti i giorni, quasi tutti i giorni. 140 non tanto, io l'ho tenuto un sacco di tempo spento, non succede niente, ma il 44 bisogna sempre farlo andare. KK, avanti Gianni. Vabbè, quello c'ha quel difetto sempre, fa quel difetto dei punti, se non lo usi, e chi ha la ragione. Ma un po' tutti i lampadini che se stanno fermi poi ti danno problemi, dai, o ti danno problemi microfonici, cioè ti danno problemi magari di potenziometri, eccetera. E vabbè. Daniele, adesso la radio è aumentata, che c'è il mic gain al minimo, per forza non mi senti più forte in radio. Adesso è più forte già, adesso già fa bene. E magari sponderando l'ho toccato, dai. Ma qua fa sono entrato, devo toccarlo qua, e poi vabbè è dovuto scendere, non so dove, e poi ha detto che è rientrato. Ci siamo sentiti al telefono, ho promesso che già vado a trovarlo. Ci siamo sentiti al telefono, ok, tanto lo riferisci a giovedì, adesso vedo un pochino domani se riesco, che anche io sono sempre impegnato, devo andare anche a Tecno, ma devo prendere materiale per finire i lavori qua, non si finisce mai Gianni. non si finisce mai, non si finisce mai, sempre prendi, sempre prendi. E niente, poi a fine settimana sono impegnato con la sezione, abbiamo riunione, cena e tutto, poi insomma un po' di impegni sempre per la sezione eccetera, ma sì, sempre indaffarato, non ho tempo manco di andare da nessuna parte. Adesso vediamo, vediamo domani se riesco a chiamarlo, andare a prenderci un caffè assieme. Vai Daniele. Gara, gara, il capo di Rosmetro, di oggi. Due giorni di riposo, meno male, dopo tanto, ci voglio, ne ho approfittato e ero un po' qua, che non può girare in radio, vedere chi c'era. Ma diciamo che dai, adesso sta iniziando, vabbè, siamo in autunno, ancora le giornate sono calde, quindi non è che possiamo richiuderci a casa, però penso che d'inverno le diamo un bel colpetto, dai. Io mi sono rimesso in gioco, ma non a livelli grandi, giusto per sentirvi, per animare un po', per far entrare un po' di gente, e quindi mi sono pure messo in gioco, ma penso che insomma piano piano già riprendiamo un po' tutti, dai, già riprendiamo un po' tutti. Ho detto Daniele, la modulazione è sempre quella la mia, eh? E si conferma, qua si conferma sempre la solita, ciò te l'avrei già detto, già lo sai. Attimo che c'è un break, avanti. A te, ti stacco l'antenna adesso. Ciao Bruno. Ciao, agli altri amici. Tu adesso è l'ultima volta che parli, perché adesso io guardo il segnale, fra poco si scoppia l'antenna. Dici di lì da sotto, se no, ecco il lineare, te lo faccio bruciare io, guarda chi. Ciao, agli altri amici. Io sicuramente Daniele non lo sente a Bruno, già qua in mezzo al QRM. Bruno, lo vesci? Sto salendo la parte alta, vicino a casa tua, però... Bruno in macchina c'è Daniele. Sì, di grido, da qualche parte, di solito vado a recuperare. Un po' vicino là. No, San Francesco, casino, motorini, c'è niente, casino, la sera, per ragazzi. Chi è che ha parlato in due? L'ho fermato, perché mi scappa, un altro è già non c'è capito chi era. E dalla due, e va a finire, non fa due, ora qui. Va a finire al verso uscito, forse. Non gli ha dato più di un minuto, come fa di radio, non fa di nuovo. A volte mi sono messo... ero lì vicino alle chiuse, c'era un cancello, c'era vicino, c'era una villa di lei, enorme, c'era la bandiera, c'era tutto. Perché tu devi andare nel parcheggio delle chiuse, ci andavo nel parcheggio, entravo nel parcheggio, mi risulta in alto, capito? Va bene, gli altri amici. Avanti, Claudio, vai, qui fai girare. Io, ciao Bruno, lo sento basso, ma se poi si mette in postazione già lo sento meglio, perché adesso lo sento bassino. Vai Daniele. E anche vado a cambiare i saluti per Bruno, non so se lui mi ascolta, perché qua vero, non se arriva e c'è in mezzo al QRM. Hai poca ricezione lì, vero Dani? Ehi, già. Ho detto, hai poca ricezione in quella zona. Qua è buona. Qua è ottima, diciamo, e posso aumentare. Sento, diciamo, tutto e tutti. L'antenna è cambiato posizione. L'antenna sto usando la mantova, ho recuperato la mantova e ci ho messo sul tetto la mantova. Capo. Io va bene, da c'è 9 qua quasi. C'è quasi 9. A me penalizza perché sono nella conca di Istri, diciamo, capito? Non sono nella parte alta, io sono nella parte dove fa un fosso. Ho capito. Vabbè, magari la zona è un po' negativa per me, però già ti ascolto bene, dai. Sì, ti ho detto, la stessa è dicendo tutti, quasi tutti. Diciamo di fronte, cioè non si può dire, però se è stato sopra la collinetta accontentiamoci. Bruno, vabbè. Io ho sempre dato, basta, a livello di QRM, a momento dice, adesso magari se salgo ancora un po', probabilmente mi senta, non so se mi sta sentendo lui, perché chiaramente io sono in macchina e così. Vabbè, comunque, anche stasera, questo baracchino in macchina, detto, io facciamo un giretto per vedere chi c'è, se no tra poco siamo fissi a garage. Vedi, Bruno non ne ha Daniele problemi, se non sente le persone si sposa con la macchina. Daniele ogni tanto ci incanta. Avanti, classe. Un altro in cagina di Gardea. Ascolta Bruno, guarda che ho chiesto a quel ragazzo per quel lignaretto, se ti interessa, fammelo sapere, ce l'ha. Non lo avrà meno di 50 euro. Già mi lo sa quanto costa quel lignare, un 747, nuovo. Non so cosa costi, io sono fuori dal mondo, ma mi sembra che lo stiano vendendo abbastanza alto. Prima lo pagavamo una cazzata, adesso lo stanno vendendo. Sa quanto costa già nuovo? Un 747. Ma io l'ho chiesto da tata, la GBC costava sulle 90 euro. No, 90 euro, questo le vuole 50. Ma da tanto tempo mi ti parlo, non adesso. Comunque anche il fusello dovrebbe avvenire, perché adesso c'ha il fusello, c'ha la Midland, mi va. Sono canibuto, sono vanuta a comprare un rosa, trovare un rosa antico, brutto, un sacco di soldi, ma vaffanculo. Ma mi va bene, mio Claudio, mi va bene se riesci a mettermi in contatto con questa persona oppure non so come fare, mi va bene perché appena segnare in più a questa dalla macchina, se no, perché non ho più l'antenna in casa adesso, quella boomerang, quella da 3 metri, l'ho tolta, intanto c'è la poco segnale, riuscivo meglio dalla macchina. No, ma con quella radio che hai tu, dandole quell'ingresso da una cinquantina di watt, capito? Una cinquantina di watt, ma che ti permette di uscire molto molto meglio. Io ce l'avevo, però le davo 8 watt pieni, quindi me ne davo intorno a 80, 70, 80, una cosa del genere. Ma con quei watt che le dai tu, 50 watt, riesci ad arrivare molto molto meglio, capito? No, non è qua, è ad Alghero, capito? Io ci devo andare in settimana. Se vuoi me lo faccio dare, però io il tuo numero di telefono non ce l'ho. Quindi, non lo so, o me lo mandi tu, Gianni, su WhatsApp, il numero di Bruno, capito? Io ci devo andare in settimana. Se vuoi me lo faccio dare, perché un amico non ci sono problemi, quando si fida molto di me. Quindi, se vuoi me lo faccio dare, così te lo provo. E poi ci vediamo e te lo do, non ci sono problemi, lo posso anche comprare io, non è quello il problema. Claudio, io non ce l'ho il numero di Bruno. Già, non c'è problema, là, già, ma non c'è problema, io c'ho il tuo, ti chiamo io, già, ti faccio scrollare il telefono e poi glielo passi, capito, non c'è problema, dai. Va bene, dai. Come sapere Bruno, no, io non ho problemi, io ti ripeto, ci devo andare in settimana perché c'è mia madre, è vero, quindi ci vado e me lo faccio fare, se vuoi lo posso anche comprare, non me ne affutti nulla, e poi ci vediamo, te lo provo a casa, sotto antenna mia, sotto strumentazione che ho io, e strumenti, rosme, trovate, materiali varie, e poi te lo do, capito, non c'è problema. Come vuoi, come fa se tu... Vedi che dove sei, anche io ti devo prima in studio, non c'è problema, capito? Oppure fai come credi, come va meglio a te, poi un giorno ci sentiamo, ci incontriamo, 5 minuti, non c'è problema, capito? Infatti io sono libero cittadino adesso. Ehi, vabbè, non ti preoccupare, dai. Però dai il numero a Gianni, tu chiama Gianni e mandatemi il numero, Gianni già ce l'ha, il mio numero su WhatsApp, capito? Me lo mandi già, così magari quando ce l'ho in settimana ti chiamo, ci prendiamo un caffè, però non c'è problema. Quello che aiuta tanto, anche perché l'abbiamo scoperto noi, sia io, Gianni, un sacco di gente, quelli a ZG ci tagliavano la modulazione, mentre quello lì invece non disturba la modulazione, anzi la fa ancora più buona, no già? Sì, l'aumenta, a me l'ha aumentato. 10, quando era l'idea di lui l'avevo preso io per primo a Sassari, poi l'avevo preso per la buona anima di Pierpaolo e poi hanno girato tutti, l'hanno preso tutti perché hanno visto che andava bene. E a Mostret, e quindi va meglio degli altri. C'era quell'imbranato del mio vicino di casa, c'era Franco in macchina che glielo ho visto io. Ma perché tu ne avevi preso un altro, bro? No, il mio vicino, Franco, avete capito di che sto parlando, quello al monte? C'era in macchina quella farina, capito? Per quello che mi è venuto in mente l'idea di mettere qualcosa in macchina per dare appena più di forza, dai. Perché così poi io vado sotto a casa di Gianni e gli spacco l'antenna. E io attacco 600 watt, ti brucio tutto. Ma tanto non fai la fine di Antonio Revetti che aveva aiuto a carbonarsi e a difendere la radio della città sotto lo sedile, ma non stiamo parlando di 600 watt, stiamo parlando di quasi un kilowatt, che ci avevo attaccato lo TN922, era venuto a prendermi a prendere un caffè, Michi sono Gugiotto, io ho schiacciato, non mi sono accorto, c'è cioè, l'amplificatore ancora collegato, sto scendendo a tu. Sono sceso, e non lo vedevo, alto, su Benoghi, era sotto il sedile, un fiaco di bruciato, ma che è successo? C'è il culo della radio, me l'ha incendiata. Allora, vabbè, di questo se ne potevo parlare, io avevo Giamo, e c'era anche Nando Rundine, se ve lo ricordate voi, Nando, Electronic, ma sto parlando di 40 anni fa minimo, Nando avrà avuto 15-16 anni, un ragazzino era. Andiamo alla casa sua, un casino per le scale lì, tutti quanti a voce, cosa cazzo era successo? Che i citofoni, facevano vibrare i citofoni. Quando Nando parlava, sentiva i citofoni, proprio un ronzio. Per cui chissà cosa cazzo succedeva, qualche frequenza, boom. Noi abbiamo passato i colori, Oh Bru, ma tu che sei amante, che sei sempre stato amante dei toccai, 5008 e 5024 non ce ne più. 5008 no? 5024 ho dato un garage dove ho anche la Fayette, il garage che c'è altro, la bandetta. Sicuramente ho lasciato dentro anche qualche scatola, perché io qui ho questi due apparecchietti che ho portato quando mi sono trasferito da lì, a casa del monte. No, allora il 5008, allora sai a chi l'avevo dato? Mi sembra che l'avevo dato a Manuel, se tu ti ricordi, Antonello Manuel, quello vacca, quel ragazzo che aveva negozio di elettricità nella Serraneta, mi pare che l'avevo dato a Luna, lui da più di 40 anni. Manuel, eravamo molti amici con Antonello, la nonna abitava proprio di fronte a casa mia, di fronte di porta, e lui era sempre dalla nonna perché i genitori lavoravano tutti e due, e sì, il negozio di elettricità c'aveva. Me lo ricordo, dai. E comunque se tu metti quello lì, 5024, fai 13 in macchina, perché c'ho una radio che è spettacolare. No, ma io ho l'altro, questo è Intec, questo, ma l'altro non mi ricordo Zodiac, che fare si chiama l'altro, ma quello che c'ho, che tengo a casa, non lo scendo giù perché tanto a casa non ce l'ho l'antenna. E quello ha un po' più di potenza di questo, questo ha un microfono che più musino, più... Tutti mi dicono che è basso, capito, non è squillante. Io l'ho comprato da quel mio vicino di casa, un preamplificatore, ma l'altro di quelli manuali, no? L'ha attaccato, ma fa casino, non lo puoi sollevare, allora mi ha aggiungato, infatti ce l'ho. E gli attacchi fatti male sarà, basta fare gli attacchi giusti, magari ho avvertito qualche filo e fa quel casino lì. Anche io a lui, se avevo un altro microfono, mi faceva casino, infatti adesso mi ho piazzato un altro per non stare a mettere mano, quello là, tanto era vecchio e l'ho tolto direttamente e ci ho messo un altro microfono. Ho trovato un affare sul catalogo della Visa dove avevano fatto un'offerta e io e Franco della stazione ne abbiamo preso due, ne abbiamo ordinato due e vanno alla grande. adesso, scusate, mi sono attanato un attimo, dove sei tu? Allora va bene le gruppiette in chiwi e ti si manda. Qua arrivano più oppio, ma già QR il trucco, adesso sì. Ma perché non ce ne va al quadrato, cazzo? Magari lì arriva anche qua, mica. Beh, certo che arriva lì. Ma al quadrato, Bru, cosa sei? Campana, ti segui le occhi bucinate, anche mi vai al quadrato. Bru. Al quadrato, Bru, così ti sente anche Daniele, che non ti sente a Ittiri. E certo che a Ittiri. Si dice sempre i Barivendiuri, Barigunetti, Bru. Certo c'è il quadrato che è la zona più alta, sali su al centro ecologico. Certo ce n'è di zone, e ti n'ha di Barigunetti, cazzo, Bru. Comunque gli ho telefonato e mi ha detto che c'era di passare quando voglio a prenderlo, capito? Non c'è problema. Bru, non c'è problema per quello, non ti preoccupare. Te lo prendo, c'è una settimana non vado alla mamma, passo e te lo prendo. Quindi ce l'ho qua, lo provo e te lo do. Ci vediamo, te lo do e te lo metti in macchina, cazzo, non manco arrivi tutti i luoghi. In macchina a Cattogiani c'aveva un impianto di luci allucinanti. Cazzo, partiva da Porto Torres, la macchina parcheggiata, vabbè io ero a carbonati, ma anche qua sicuramente arriva molto bene. Cazzo, arrivava 9 più 20 dal parcheggio dei granari. Aiti Daniele, io non ho più baracchini, se no te la viva due, ma mettetelo in macchina. C'ho roba vita, c'è funzionante, c'ho l'HB 525, che è gemella dell'HB 23, l'HB 23 l'avevo regalata a Mazzo Giulio, ma ha fatto un sacco di cose e non voleva niente, qui l'avevo regalata alla radio. Ma c'ho l'HB 525, c'ho Elbex, c'ho Royce, c'ho Persipson, c'ho Pacci, il Pacci ne ho due, il 123, il 123A, ne ho un sacco di baracchini, ma sono tutti baracchini vecchi, Bru, cosa buono in macchina di buono, una radio mentre di Cristiano, mentre va Gianni, come c'ha Gianni, cazzo, avevi già un impianto fenomenale nell'Astra, cazzo, quando uscivi fuori. Quello non l'ho fatto io come l'impianto, tutto io me l'ho fatto. E andava bene, perché c'avevo anche quel baracchino che era modificato, quello camionista, quello di Gigi Vulcano, il primo di Gigi Vulcano. La 48 mi ricordo, una bomba, mi ricordo a Carbonazzi come partivi, e tu mi già ne partenti, 9 più 20, e non ti spostavi da lì e facevi Monterraggio, tutta la zona, sempre fortissimo, fortissimo. Qua ti ho sentito qualche volta in macchina con la base magnetica, sì, esci bene, ma non ha niente a che fare con l'impianto che ci avevi prima. È chiaro che non ne vale più la pena oramai fare quegli impianti, ma se ti serviva, anche perché viaggiavi tutti i giorni, quindi è così. Però Bru, ti assicuro, guarda, che se metti in quella macchina così come sia adesso il 747, ti aumenta anche la radio, il segnale sale, perché sale, e vai bene. Daniele, riprendi, non lo senti a Bruno? No, cara, vero, adesso la faccio per quel rem, però vero muoversi lo smicker, però niente. Perché in macchina vari campagni, se sale su a Serra Secca a vedere si arrivi, se va al centro ecologico ti arriva più forte di me. Io da lì a volte con la macchina, io ho il VHF in macchina, eccito tutti i ponti della Sardegna, una zona favolosa. Io peccato che sono un po' più nella 50 metri più sotto, 50 metri più sotto, se no sarebbe stato alla grande da qua. Ma comunque in linea di massima, nonostante l'antenna si abbassa, già mi sentono tutti. Vai già. Ma tu dal centro ecologico sei vicino qua? È un 700-800 metri. Ho capito. Vabbè, io una volta mi sono messo lì a modulare, infatti tu per te ci tiri da sotto un gas. Stavo modulando con il figlio di Chio d'Arrugginito, con il figlio di Gianni Caprini. Da lì non si scherza, lì è più aperto di qua, io so se non lo vedo, capito? Non lo vedo perché sono praticamente nella collinetta che poi prende lo scorrimento veloce per Ogilo, quello nuovo, dove c'è Trevo Giavetta, no, dove c'è quel muro proprio nella curva, dove c'è quel muro tutto in pietra, no, di fronte sono io, di fronte a, a Sergio, Claudio, Valerio, Renna, sono di fronte a loro. La zona già è buona, buonissima, in HF mi diverto tantissimo, qua al 27 l'antenna è bassa, vuole messa sopra, ma io sopra non le metto per problemi di estetica e di tutto, capito, no, non va bene, già va bene nel giardino. Avanti Bruno, dove sei? Allora, sono messo nel suo movimento. Ah, se lo sto salendo, perché, ma scusa, questa cosa sto facendo io, definitivo. Sono passato a barca, sto salendo, non va a finire verso la zona di Ugio, la parte alta di Ugio, no? Cioè, questo certo che c'è a destra, non andava a finire di una strada. Esatto, infatti sei 9 desi, ma già lo vedo, sei di fronte a me adesso. Adesso sto salendo ancora, ne ho. Adesso salgo a vedere un po' dove posso arrivare. Comunque l'amico di Istri è arrivato fortissimo adesso quando ero parcheggiato lì. Santiago 7, ma la radio era bella, è una radio 4 bella, l'ho sentito molto bene. Lo senti Dani adesso a Bruno? Neanche adesso qua, sento sì, un po' meglio che c'è qualcuno sotto, però non chiarissimo. Ci è arrivato forte adesso, io lo sento benissimo. Vedi, perché lui c'ha potenza, ti arriva. Tu sei con 4 watt e li vuoi andare. Se però le metti quel linearetto fatto bene, messo in una posizione dove non si vede, dove tu accendi solo il pulsantino e ti va via Gianni, tanto vedi che le cose cambiano. Infatti adesso, come una volta le macchine si bucavano, si va via, si attaccavano lì davanti, io devo trovare un pochettino sotto, in un angolino dove... Io la sera avevo smontato il mobiletto, l'avevo messo acceso dentro e gli avevo fatto un interruttorino piccolo piccolo sopra e si accendeva anche la lucetta rossa quando era acceso, quando era spento si spegneva e non si vedeva nulla, accendevi l'interruttore, si accendeva la luce rossa e c'era la linea in sinistra. Infatti, così bisogna farlo. Dentro quel scotto lo metti mica piccolino 747, se no veniamo con Sabato a Manzano o ci troviamo l'altro in garage, scendo e te lo piazzo io come cristiani, se ce la mettono una staffetta ti metto una staffettina e se fa un lavoro fatto bene che non lo tocchi più, come ha detto Gianni, un interruttore esterno se non c'è la possibilità di accenderlo, capito? Un interruttorino esterno luminoso, quando è acceso c'è la luce rossa accesa, quando è spento è crudo e tu vedrai come cambia, perché 50 watt in macchina è tanta roba, va bene così con 4 watt e blu tu senti ma gli altri non ti sentono. Vai Daniele. Magari 70-80. Ma con 4 watt, perché io ce l'avevo in macchina e le lavo 8 watt in ingresso, con 8 watt mi lavo 80 watt, ma con 4 watt te ne altri 50. È sempre meglio che 4. Certo, già, infatti quello le sto dicendo, sempre meglio di 4 watt. Stavo dicendo, lui mi sente adesso. Sì, lui ti sente anche forte, sei tu che non senti a lui, perché non c'ha potenza, capito? Adesso lui recupera un linearetto e se lo mette in macchina e vedi che arriva molto bene quando esce. Beh, di sicuro sì, arriverà anche qua. Adesso ha migliorato molto il segnale, adesso sono in movimento, sto salendo, sto cercando di arrivare con la zona alta di Usi, con la zona là, non di Usi, non di... Da lì ne esci, poi una volta che è tutta finita la strada che porta al tappettino, a Semagliano non ha da quella strada, stanno facendo un lavoro eccezionale veramente, molto molto bello e snellisce molto il traffico anche e soprattutto. Sì, una volta che esci lì, tu sei a posto. Dovrei essere vicino, adesso sto seguendo la fase del tram. Daniele! Avanti! Guarda se il segnale è aumentato, 1, 2, 3, 4, 5. Sì, cavolo, 6, 8 adesso, capichi di 9, sì. Qua pagava. Vabbè, ti ha catturato l'apparecchio, questo è il Magnum. Questo qua, Nischi. picchia forte. E qua c'è passato da 9.10 a 9.20 già. Vabbè, il Magno c'ha più watt, c'ha più watt, quello là ne aveva 8 il Dax, così è, 8, questo ne aveva 50, perciò è chiaro che si è aumentato alla grande, anche bella radio, bella modulazione, bello todos. Vediamo Bruno, di se sei scido, dove sei? Allora, adesso devo girare qua. Che devi attavare il cazzo la segnale si sta aumentando, deve essere la zona tua alla grande, va bene, perché sto sempre salendo, ma no, che tutto sono giorni di campagna, già un giorno non passavo qua. Perché una volta che ne sali da lì, avvento tu dalla zona di Filighetto, che giri, vai verso la zona di Serrasecca, esci a Serrasecca, dove c'è la fermata Letrà, lì a Coso, capito, al centro ecologico, e io sono davanti a te. Claudio, una volta si andava lì al centro ecologico, poi si girava in un viottolo e ti faceva vedere tutta Sassari, ma era bellissimo come panorama, ma adesso hanno cambiato tutto. Ecco, già, hanno rivoluzionato tutto, ma una volta c'è che ormai Piazza dei Segni. Piazza dei Segni non si può più scendere come scendevi prima, c'è a due corsie a sinistra, vedete, hanno tutto chiuso, fatto piazzuola, marciapiedi, non c'è più quegli spazi traffico lì davanti al bar quadrato, hanno fatto la rotonda, cazzo, stanno facendo dei lavori allucinanti. La rotonda stanno facendo tutte le parti, anche nel paese adesso. Ma lì viene un bel lavoro secondo me, veramente, giardino, tutto, di fronte al Conti hanno tutto chiuso, fatto delle cose particolari, vabbè. Gaffa, meno che mi rimmi, Bruno. Però se ne sono già aperto, allora io ho sbagliato, ho preso anziché ho lasciato l'asfalto, ho preso la strada e ero un gottolo di campagna, adesso sto tornando indietro. Tu messo, sono navigatore. Chi vedi, stati Danilo, fratello Roberto Farina. Io ho fatto tutta la salita, alla fine della salita, più che in fondo tutto, ho girato a destra pensando fosse una strada asfaltata, invece probabilmente, sono diventato un gioco che non mi dura la strada, perché sì. No, ma sbagliato, dovevi girare dall'altra parte, uscirne dove c'è il centro ecologico, invece mi dice in treno di Trento, dentro la campagna. Vai già. Fai come ti ha giocato, una volta ero invitato alla festa di laurea, era una campagna, e sono andato in moto. Forse mi ha detto che c'era una biforcazione alla fine della strada e poi c'era un cofano di macchina che dove c'era scritto carrozzeria sopra. Ma non mi ricordavo se dovevo andare dove c'era il cofano o dall'altra parte, perché c'era una biforcazione. Ho preso la prima strada che mi ha invitato, poi se sbaglio ritorno indietro. Se non è una strada chiusa, mi hanno aggredito due cani, cazzo, comincio a accelerare con la moto, i cani mi hanno strappato tutti i pantaloni dell'abito, quando mi stava a brandire. Ma come sei gaggiuto, come sono caduto io una volta, non la so, solo a volare. In moto, la facevo tutti i giorni, però d'estate andavo spesso in moto e nella strada che porta all'impianto ne sono usciti questi due cani, i cani randaggi, il gatto giù, ma il gaggio a cabaterra, mi morsicavano le scarpe, solo che erano antifortunistiche, quindi alte, e poi non mi faceva male, capo, davo colpi, nulla da fare, male mi si dove c'è un cancello dell'impianto. Ma io caro con l'abito, capito, mi hanno rotto tutti i pantaloni dell'abito, quando sono arrivato lì mi hanno visto con i pantaloni a prendere, cosa è successo, cioè, mi hanno morsicato di cane, mi hanno medicato, tutto quello di morsi ero, cazzo, due cani, mettevo i piedi sul manubrio per non farmi prendere e mi musicavano in dirigere da tutti i bassi. Vabbè, vai Daniele. Ehi, mi sono allontanato un secondo, vado a prendere la sigaretta giù e niente, no, adesso ho sentito leggermente di striscio, ma tutta roba comunque. Perché si è incasinato, se lui ne usciva direttamente lì al centro ecologico, allora sentivi molto meglio, capito? Dove sei, Bruno? No, stavo indietro, ci sono entrato dentro la campagna, ero dietro, non ho visto. Adesso ho sbagliato qualcosa, perché mi ha detto qualche volta che sono anche passato qua io, anche se ho quella zona lì, ma questa volta qua non sono incasinato, sto trovando indietro. Ma al buio ti incasini, cazzo, una volta sono andato a vigilia a prendere a mio figlio a una festa, mi sono incasinato e lo vedi mi faccio a parlare. Mattami, mi sono labirinto a vigilia, anche io mi sono perso una volta. Devo andare a casa di Gesino Pilo, dove ci sono andato un sacco di volte, mi sono gubbescio. Ma il buio ti frega, capito? Io avevo preso come punto di riferimento che c'era in un muretto, c'era una Madonnina e subito dopo c'era il vicolo, avevo preso quello come punto di riferimento, ma al buio dove c'è, non l'ho visto, ho continuato dritto e mi sono gubbescio. No, diciamo che l'avevo trovata, adesso questo buio io da tanti anni lo faccio qua, perché l'ho fatto altre volte, non lo trovo, ma ti faccio dentro. Oh, che ore sono, raga? Infatti ne approfitto, vi saluto a tutti, cordialmente, e ci ascoltiamo le brusine se coincide. Ciao, ciao Daniele, un abbraccio, saluto a casa, ci aggiorniamo, comunque fate sentire perché la sera già siamo operativi, dai, giusto due chiacchiere già ce le facciamo, vai già, Gianni. Ehi, un attimo, adesso stavo attaccando l'altro in Luis, dai, chi sta andando via, non ho capito perché stavo girando il canale. Daniele. Ciao Daniele, questo è Luis, ti piace? Questo arrivi molto, molto più basso, c'è il segnale. Vabbè, questo qui c'è con 4 watt, però è un bel apparato, io quando me lo vedo davanti mi piace tutto come apparecchio. Vabbè Daniele, dai, ci sentiamo, siamo qua la sera, quindi fate sentire. Bruno, avanti, questo è il microfono, l'ho apparato nel vivo. Ciao certificato usato, me l'ha venduto 25 euro e poi non sono riuscito a mettere con i momenti giusti, allora lo metto via. Guarda, ce n'è uno di microfono che ho preso molto bello, quello con cui sta uscendo il penultimo apparecchio, quello lì costa poco e sembra bene, è molto bello quel microfono, lo vendo su internet, se no me l'ha fatto prendere Rata Pignara ed è andata bene perché si adegua molto all'apparato e quindi esce bene, dai. Senti Francesco. Va bene, dai. Va bene, raga. Ok, comunque vi saluto perché già avremo un TG e poi c'è anche la partita, c'è nazionale. Quindi c'è un po' prima oggi. Ciao Gianni, ciao Bruno, a Daniele ho salutato e a chiunque fosse in ascolto sui 10. Amusant Reda per tutti, a domani. Vai già. Sì, sto andando via che a portare il cane. Ciao Bruno, ciao Agatha e Claudio, ciao a tutti gli altri amici che sono all'ascolto, per il tipo ormai esecutivo. Ciao, ciao. Ok, ci sentiamo, anche io adesso torno dietro, anche io devo portare il cucciuccio a passeggio. Ci sentiamo. Allora già, ti do un colpo di telefono, così, d'accordo? Ho un bel telefono, se sei rilassato, come vuoi tu? Così tu. Poi niente, mi faccio aperto, mi faccio con un luce, magari, poi. Però, a finire non c'è nulla, no, poi mi che sta bene, là. Allora, ci chiamo io, adesso, perché ho registrato il telefono, non dobbiamo avere qualche agente. E poi dai il telefono mio a lui, dai. Tu Bruno entra in radio la sera, non c'è problema, ti ho detto io in settimana ce l'ho già. Lo porto a casa e lo controllo tutto e poi ci sentiamo e te lo do. Ok? Ciao, buona serata a tutti. Ciao, ciao. Ok, sentiamo, ciao a tutti. Ciao, buona serata a tutti.